Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Caro direttore, immagino che riceverà migliaia di lettere di giovani insoddisfatti ogni giorno. Oggi ne avrà una in più. Ho appena concluso una serata con amici e il clima finale non era esattamente quello che ci si dovrebbe attendere da persone che hanno da poco terminato il percorso accademico e si sono appena tuffate nel mondo del lavoro. Siamo diventati quelli che sognano di appartenere alla generazione 1000 euro. È qualcosa di talmente desolante che non si può nemmeno descrivere. E la cosa triste è che non dovrebbe essere così. Bisognerebbe vedere degli occhi infuocati per la rabbia, e invece sono solo colmi di rassegnazione. Bisognerebbe forse elaborare uno sciopero degli stagisti, anche se dubito avrà la stessa rilevanza di quello degli immigrati. Noi siamo ancora più invisibili. Ingenuamente mi chiedo se noi siamo una generazione nata stupida, o forse una volta si nasceva imparati già da giovani. Forse che allora gli apprendistati non si pagavano? O duravano forse in eterno? A me non importa lo sfruttamento temporaneo. Non mi va l'idea di esserlo di continuo mentre faccio esattamente lo stesso lavoro di una persona assunta e senza uno straccio di prospettiva. Oggi si lavora giusto per la gloria. Se ad un colloquio un candidato si permette di chiedere se alla fine dello stage esista una possibilità remota di assunzione, si è già giocato metà delle chance di ottenere lo stage gratuito per 6 mesi, con rimborso spese a partire dal 3° mese. E la crisi economica è spesso una tristissima scusa. Non potete nemmeno capire che al popolo degli stagisti non importa nulla dei contratti collettivi. Siamo troppo al di sotto delle tutele minime di legge. E dire che a me hanno sempre insegnato che le riforme del mercato del lavoro avrebbero permesso anche alla mia generazione di liberarsi dai rigidi vincoli e beneficiare delle nuove opportunità del mondo del lavoro. E io ero felice di vivere in un paese che si stava dotando di sistemi più efficaci e moderni. Il mio sogno non era più quello del posto fisso, ma quello di avere un lavoro in un contesto stimolante che mi permettesse di crescere. Mi avevano insegnato che nello scambio do-des i lavoratori accettavano un taglio dei loro diritti acquisiti negli anni, ad esempio accettare dei contratti a tempo o comunque più flessibili, in cambio di una retribuzione possibilmente più elevata. Non so se una persona di 50 anni possa immaginare la frustrazione che si provi a ottenere uno stipendio di 200 euro. Rimandiamo a casa i cinesi. In Italia la manodopera giovanile costa meno. Voglio capire come questa generazione di nuovi poveri potrà finanziare non solo il proprio futuro, ovviamente non parlo di pensione, ma anche sostenere il peso di una quota di popolazione elevatissima, da mantenere con degli stipendi che non consentono nemmeno la sussistenza. Se i pensionati aumentano sempre di più e nel contempo si riduce sia la popolazione in età da lavoro, sia lo stipendio dei nuovi entrati, come si può pensare che il sistema continui a funzionare? Come si fa a permettere che un'azienda continui a prendere stagisti senza mai assumere nessuno? Qualcuno non dovrebbe impedirlo? I sindacati svolgono qualche ruolo a favore dei nuovi arrivati o sono solamente capaci di erigere delle barricate a favore dei diritti acquisiti dalle generazioni precedenti? E perché noi dovremmo fungere da agnello sacrificale? Cornuti con dei contratti capestro, mazziati da un salario da fame e presi in giro da gente che ci dipinge come dei bamboccioni. Questa lettera arriva da una persona che risiede nella ricca Brianza e che finalmente ha trovato uno stage con reali prospettive di crescita. Daniele. Caro Daniele, il problema che lei pone è certamente reale, ma per i giovani non è mai stato facile trovare un posto di lavoro. È vero, è aumentato negli ultimi anni il ricorso agli stage, anche perché le norme sul lavoro hanno reso più facile questa formula per l'inserimento dei giovani in azienda. Ed è anche vero che vi sono aziende, spero una piccola minoranza, che utilizzano questo sistema per ottenere periodi di lavoro a poco prezzo, sostituendo periodicamente gli stagisti con altri stagisti. Ma un'azienda che voglia crescere, che voglia affrontare la concorrenza, che voglia consolidare la propria posizione, non può che offrire una prospettiva di sicurezza e di professionalità a coloro che vi lavorano. Su questo tema è sbagliato generalizzare, perché vi sono moltissime aziende che utilizzano gli stage per la finalità per cui sono stati pensati. Attraverso uno stage, l'azienda può conoscere una persona, valutarne le doti e la preparazione, capire le reali possibilità di inserimento. Gli stage, così come l'apprendistato e i periodi di prova, sono un passaggio utile e necessario. Anche in questo campo vi possono essere abusi e violazioni delle regole, ma la sanzione può arrivare non solo dalla magistratura, ma anche dal mercato. un'azienda che non ha a cuore la professionalità dei propri dipendenti non può avere un grande futuro. Ho visto il risultato del terremoto del 95 di Kobe in Giappone. Mia moglie è di Kobe, mia figlia è nata lì nel 95. Tutto questo per dire che ho ben presente una situazione di immenso dolore, di eroismi sovrumani fatti in silenzio, di volontariato, di organizzazione, di cultura del fare. Nonostante mia moglie abbia vissuto quell'esperienza ben più grave di quella dell'Aquila, ha detto: qui all'Aquila, in quella situazione di emergenza anche economica, avete fatto miracoli. Ed ora sento critiche da parte degli stessi aquilani. A me anche il popolo delle Cariole sembra solo frutto di demagogia. Se così non fosse, avrebbero dovuto dire: ringraziamo tutta l'Italia per i soldi e gli aiuti che abbiamo ricevuto, adesso noi cercheremo di fare il resto. Mi pare invece che siano partiti prima di tutto cominciando a criticare quello che è stato fatto. Siamo alle solite. William, Venezia. La famiglia è una società naturale formata dal matrimonio fra un uomo e una donna. Questo è il principio affermato dall'articolo 29 della Costituzione italiana. Questo vuol dire che le unioni omosessuali non possono passare attraverso l'istituto giuridico del matrimonio, a meno che non si voglia modificare il dettato della Costituzione italiana con una maggioranza qualificata. Ma per ottenere questo risultato, la società italiana dovrebbe essere rappresentata per almeno 2/3 da omosessuali. Questo scenario è il motivo per cui difendo strenuamente la famiglia naturale, caposaldo di una società naturale, argine assoluto alle novelle invasioni barbariche che si insinuano nel sistema democratico italiano con un vero e proprio attacco demografico cui le coppie gay non possono rispondere e offrire alcun contrasto. Le degenerazioni dei modelli e degli stili di vita occidentale offrono il fianco ai suoi competitori e ai suoi più violenti avversari. Ecco perché invito chiunque faccia scelte di vita sessuale differenti da quelle naturali a prendere coscienza delle conseguenze pesanti che tali libere scelte hanno sulla stessa continuità e sopravvivenza del nostro comune modello occidentale, cristiano e naturale, oggi oggetto del più violento attacco culturale, religioso, demografico e terroristico che si sia mai registrato sinora. E debbo ricordare agli omosessuali che proprio il modello e lo stile di vita occidentale basato sulle libere scelte individuali e sul sistema delle libere democrazie è il primo argine alla loro stessa sopravvivenza, poiché risulta anche troppo evidente che l'omosessualità vissuta nei paesi avversi al nostro modello di vita occidentale viene avversata, violentata e punita anche con la morte. Se io fossi un omosessuale, ci penserei più di una volta prima di fare il gioco di chi mi vorrebbe vedere penzolare da una forca. La mia vuole essere una chiamata alla riflessione sul senso di responsabilità di chiunque voglia vivere nella civiltà della democrazia e della libertà. Gustavo. Si continua a parlare di riforme. Ho provato a chiedere in giro alla gente se conosce quali siano le riforme delle quali si parla di continuo. Non lo sa, ma pensa che siano una cosa molto importante, che siano necessarie, ma non sa il perché. E a questo punto non lo so nemmeno io, o meglio, non credo sia necessario parlare di riforme, ma piuttosto di cambiamento. La verità è che dietro la parola riforme si nasconde la necessità di far funzionare istituzioni che, nonostante continui interventi legislativi, continuano a non servire come dovrebbero, a partire dalla politica, che non è capace di cambiare se stessa. E si vende ai cittadini una parolona, riforma, che assomiglia tanto ad autarchia o spezzeremo le reni alla Grecia, che poi se le spezzate da sola, bastava aspettare. Com'è possibile cambiare le cose se non si è capace di cambiare se stessi? Stefano. 2753 giorni, più di De Gasperi, più di Andreotti, più di Moro, più di Fanfani, più del doppio di Craxi, poco meno del doppio di Prodi, 3,5 volte i giorni di Amato, quasi 6 quelli di De Mita, 7 volte quelli di Ciampi. Tanti sono i giorni in cui Berlusconi ha governato questo paese e gli italiani, legittimamente, hanno rinnovato una nuova cambiale in scadenza. Quando la cambiale è stata firmata, era ancora vivo Ayrton Senna. Non esisteva ancora l'INPDAP ed esisteva ancora la SIP. Jacques Chirac non era ancora presidente della Francia. Robbie Williams faceva ancora parte del gruppo dei Take That. era ancora vivo Yitzhak Rabin, Frank Sinatra si esibiva ancora in pubblico, dovevano ancora passare 3 anni prima che Tony Blair diventasse primo ministro e ancora 4 prima che Helmut Kohl abbandonasse la sua carica. Bondi era ancora comunista e Cicchitto socialista. Io portavo all'asilo mia figlia, che oggi è una brillante studentessa universitaria, e io ero un giovane quadro direttivo, mentre oggi ho superato i 50 anni con un incalzante grigiore che ha invaso la mia capigliatura. Il problema è che a firmare la cambiale ci sono oggi pochi debitori credibili e che piuttosto che passare a riscuotere e reinvestire le somme presso un altro soggetto, per l'italiano è più facile, più comodo e forse meno rischioso rinnovare il credito già concesso. Del resto, la forma verbale tipica della cambiale è il futuro, pagherò, così come faremo, rinnoveremo, riformeremo. Aniello. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Continuate a scriverci.